as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Salve a tutti, buon pomeriggio. Qualcuno di voi ha già mangiato, sta prendendo il caffè, come ho fatto io. Oggi abbiamo una puntata molto particolare da un certo punto di vista, nel senso che noi al Pane delle Rose spesso parliamo di vertenze, di contratti, ogni tanto chiamiamo qualche artista, spaziamo, no? Ma la maggior parte delle nostre puntate sono vertenze sindacali, oltre che parlare di contratti che vengono firmati nelle aziende. Il mondo metalmeccanico è il pane quotidiano, anche se ogni tanto intervistiamo anche altri lavoratori. Però diciamo che il mondo metalmeccanico è il fulcro della nostra trasmissione. Oggi parleremo di una vertenza, dal mio punto di vista, atipica. Perché esistono ancora dei territori in cui anche le piccole aziende non vengono abbandonate. E questo è il territorio di Imola, ci sta anche a Bologna, a Modena, anche in altri posti, ma sempre meno. Invece Imola, un piccolo territorio, una piccola camera del lavoro, c'è stata una piccola azienda che è andata in difficoltà, che in realtà in passato era una grande azienda, stiamo parlando di Sant'Andrea Industrie Tessili, cosiddetta ex Cogne, un'azienda storica della provincia di Bologna, è andata in difficoltà e vogliono praticamente chiuderla. Abbiamo intervistato in un comitato centrale un po' di tempo fa, è una puntata che io ho fatto tanto tempo fa, poi per varie questioni non sono riuscito a mandarla in onda, e sentiamo Valentini, segretario della FIOM, che ci racconterà questa vertenza così atipica, perché ormai purtroppo i piccoli luoghi di lavoro con pochi dipendenti spesso vanno a morire e si fa veramente poco per loro. Invece a Imola hanno detto no, anche pochi lavoratori e una piccola azienda hanno diritto al massimo sforzo della Camera del Lavoro, e questo gli fa onore. Adesso ascoltiamo un pezzo bellissimo di Jack Savoretti e poi ascoltiamo Valentini. A dopo. I've been wondering what's been going on. I've been here before, but I don't remember when. And every time we get to where we're entering, I feel my beliefs and hopes surrendering. But I know I'll be coming home soon. Yes, I know I'll be coming home soon. 'Cause like the enemies that we are battling, I am nothing but a human alien, left with nothing else but to keep wandering down this path while stopping my hands trembling. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon. With a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. I've seen inside the devil's dreams, where young men die and graveyards open up their arms for mothers left to cry. I have seen the bleeding and I hear what we've done, but just like every other fool here, I'll keep marching on. Because I know that I'll be coming home soon. And yes, I know that I'll be coming home soon with a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes, with a soldier's eyes. Allora, siamo qui oggi qui in CGL, Comitato Centrale della FIOM. Ho incontrato Marco Valentini, il segretario della FIOM di Imola, e con te volevo parlare di una vicenda che ho visto sui giornali, sì, che riguarda Imola, un'azienda, Sant'Andrea Textile Machine, in cui sono 5 lavoratori che rischiano il licenziamento. Voi avete fatto una bellissima iniziativa. Raccontaci un po' come si è questa storia dall'inizio, perché è una storia molto lunga. Questa azienda è un'azienda importante di Imola, no? Sì, in realtà la Sant'Andrea Textile Machine è la ex Cogne, che è un'azienda storica sul territorio, praticamente storica perché ci ricorda le lotte anche sindacali che sono venute negli anni e anche le lotte per la resistenza. La ex Cogne di Imola è un'azienda che praticamente è stata ricostruita dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale con le lavoratrici e i lavoratori, e quindi anche con le varie, insomma, iniziative che poi negli anni sono state messe in campo appunto dalle lavoratrici e i lavoratori. Una fortissima rappresentanza sindacale all'interno, quindi, che fa storia sul territorio. E negli anni purtroppo però c'è stato anche un forte ridimensionamento legato anche a politiche aziendali e industriali che sono venute avanti. Noi abbiamo praticamente ultimamente abbiamo richiesto un incontro all'azienda, che ci serviva per capire l'azienda appunto ridimensionata, perché comunque erano rimasti 6 lavoratori, un'azienda che comunque in passato ha contato anche centinaia e centinaia di lavoratori occupati, e avevamo chiesto un incontro proprio per capire lo stabilimento di Imola in che condizioni versava a livello di ordini, collegato naturalmente con la sede centrale che attualmente è a Novara. Tra l'altro l'azienda è anche controllata da un gruppo francese, quindi andiamo anche oltre Alpe, diciamo così, e quindi le decisioni, a quello che ci risulta, vengono comunque prese dal gruppo francese. E è venuto giù il 6 febbraio, durante l'incontro è venuto giù un dirigente direttamente da Novara, rispetto a quello che era stato richiesto, quindi un aggiornamento degli ordinativi. Lui ci ha comunicato che praticamente c'era un forte problema di ordinativi su Novara, e ci ha iniziato a parlare molto tranquillamente addirittura di trasferimenti di personale e di esuberi, quindi su sei persone, esatto. Quindi stiamo parlando di numeri limitati, però è chiaro che la nostra azione nasce dal fatto che comunque volevamo e vogliamo mantenere la storia, quindi il marchio e il nome del sul territorio di Imola, e quindi abbiamo subito deciso attraverso le assemblee sindacali il 12 febbraio di fare un'iniziativa, quindi un presidio con 8 ore di sciopero. E a questo presidio comunque è seguito anche l'avvio di una procedura per la richiesta di un tavolo presso la città metropolitana di Bologna, e la nostra intenzione è quella comunque di mantenere lo stabilimento su Imola, anche se è ridimensionato, però insomma la nostra posizione come FIOM, ma anche in maniera unitaria, è quella di mantenere il presidio. Adesso vediamo un po' gli sviluppi. Probabilmente ci convocheranno nei prossimi giorni, e vediamo, soprattutto ci auspichiamo che la dirigenza sia di Novara e sia anche la dirigenza francese si presenti ai tavoli per trovare una soluzione che sia nella tutela e nel mantenimento dell'occupazione su Imola. Ma cosa produce questa azienda? Questa azienda è leader storico leader nel meccano tessile, quindi è un'azienda che comunque negli anni ha cercato, insomma, di portare avanti alcuni prodotti appunto nel meccano tessile, con delle idee, diciamo, sotto l'aspetto industriale, che però non hanno portato, insomma, nessun tipo di risultato positivo. Ci ritroviamo oggi appunto a discutere di purtroppo nuovamente esuberi, e questa per noi sicuramente è una notizia che è inaccettabile, lo diciamo chiaro e tondo. Quindi, come Fiom di Imola, avete fatto delle belle iniziative, coinvolto il territorio. Sì, in realtà è stata una bella iniziativa quella del presidio, bella per modo di dire, perché comunque si parlava dei temi che abbiamo appena detto, però comunque c'è stata una buonissima risposta anche da ex lavoratori, da ex colleghi dei lavoratori attualmente presenti, e quindi diciamo che comunque sul territorio abbiamo cercato anche di dare un segnale forte all'azienda, rimarcando proprio il fatto della storicità che la ex Cogna ha sul territorio di Imola, e per la quale noi siamo pronti ad andare avanti, a lottare e cercare di mantenere quel poco che è rimasto. Ma insomma, questo qua era una grande azienda, no? L'ex Cogna, sì, che faceva anche centinaia di dipendenti, aveva centinaia di dipendenti, ma come siamo arrivati ad avere da centinaia di dipendenti fino a 6 dipendenti solamente, perché adesso producono pochissimo, in 6 cosa potranno fare? Come sei arrivato a questo? In quanti anni? In realtà ci sono stati appunto dei cambiamenti dirigenziali, diciamo, nel tempo, che un po' per le politiche che sono state portate avanti, un po' anche per delle scelte imprenditoriali che dovevano andare verso un'altra direzione, probabilmente, se vogliamo dirla tutta, queste scelte imprenditoriali andavano dalla parte opposta, quindi certo, quella effettivamente di ridimensionare la struttura. E poi comunque al tavolo ci è stato chiaramente detto che comunque il progetto dell'azienda è quella di, insomma, di chiudere lo stabilimento di Imola, quindi questo sicuramente, ripeto, sono anni che hanno in testa questo, probabilmente non sono bastate le azioni sindacali anche negli ultimi anni portate avanti. È un progetto che è venuto avanti e lo stanno cercando di portare a compimento. Ripeto, noi ci troviamo in una situazione sicuramente ereditata, certo, dal passato, e comunque riteniamo che, nonostante tutto, la nostra posizione rimane quella, comunque quella di mantenere il sito, e su quello che noi vogliamo provare in tutti i modi di lottare. E di batterci, insomma, ecco, insieme alle lavoratrici e ai lavoratori. Ma c'è anche un piano di rilancio? Avete anche coinvolto l'assessore Colla in questo? No, in realtà noi abbiamo per adesso coinvolto sicuramente il comune di Imola, quindi come amministrazione comunale, tra l'altro al presidio, sono intervenuti come solidarietà e anche, insomma, come supporto, sia il sindaco del comune di Imola e sia l'assessore alle unità produttive del comune di Imola, che comunque ci hanno assicurato un sostegno, un supporto a quelle che sono la nostra iniziativa. E, detto questo, il tavolo che è stato per adesso non ancora formalmente richiesto, ma comunque in fase di avvio, è quello della città metropolitana di Bologna, quindi probabilmente limitato sul territorio per il momento della città metropolitana di Bologna, però la nostra intenzione è comunque quella di eventualmente di coinvolgere maggiormente anche le istituzioni, anche, certo, a livello regionale, però speriamo di non arrivarci, speriamo, insomma, che i primi incontri siano utili, insomma, ad avere quantomeno un chiarimento. E prima tu mi parlavi di rilancio, certo, è chiaro che noi l'abbiamo richiesto un rilancio, perché non è possibile che uno stabilimento come Imola, che comunque dove i lavoratori anche nel 2023 sono stati tutti occupati in maniera egregia, nel senso che hanno fatto il loro lavoro e hanno svolto il loro lavoro regolarmente, siano coinvolti in una fase di ulteriori esuberi o di trasferimenti, come ci ha chiesto subito la proprietà. Quindi è chiaro a tutti che quando su 6 dipendenti una proprietà mi viene a parlare di, ci viene a parlare di 3 trasferimenti, noi lo interpretiamo come una sorta di licenziamento mascherato. Perché di chiusura, poi, chiusura del sito. Anche perché stiamo parlando anche di lavoratori storici che comunque sono abbastanza avanti con l'età, non dico difficilmente ricollocabili perché sono comunque tutte buone professionalità, però sicuramente lo spirito non è quello di un ricollocamento dei lavoratori, è quello di mantenere il lavoratore sul proprio territorio, nella propria fabbrica, nella propria azienda, e quindi continuare a lavorare lì dove insomma è nato e cresciuto. Quindi questo è. Siete stati molto coraggiosi, perché pochi difendono aziende così che sono ridotte al lumicino, perché un stabilimento con 6 dipendenti è lumicino. Infatti ero incuriosito dalla vostra tenacia, e dunque noi siamo con voi, siamo con tutti quelli che lottano con i denti, con le unghie per tenere il sito, no? Il proprio, ed è una cosa onorevole. Noi siamo con voi, Panelle Rosa è con voi, tutta la Fiomma è con voi, chiaramente è il vostro coraggio. Certamente però bisogna che ci sia un piano di rilancio, cioè Ex Cogne deve in qualche modo rinascere, perché altrimenti non sarà questa volta ma sarà più in là, e questo purtroppo tenderà a morire. Solo se si riesce veramente a coinvolgere tutti i lavoratori del territorio a far questo, e convincere la politica, che serve degli investimenti, ma anche a cambiare il padrone a un certo punto, perché oppure creare una cooperativa o proprio a prendere in mano la situazione, perché sono soluzioni. Sì, sicuramente questo, quello dello sciopero del 12 con il presidio di 8 ore, sì, è chiaro che noi lo consideriamo un inizio, certo. Non dovesse esserci uno sbocco, è chiaro che non si esclude il coinvolgimento maggiore di quelli che sono le lavoratrici e i lavoratori sul territorio, anche di altre aziende, perché comunque dal momento in cui si intraprende un'iniziativa di lotta è chiaro che questo è stato solamente il primo segnale. La nostra intenzione è quella, appunto, attraverso i tavoli istituzionali, ma sicuramente non escludiamo che la lotta è comunque il modo in cui e rapportarsi anche con questi imprenditori, chiamiamoli così, cioè noi comunque cercheremo in tutti i modi di estendere e di coinvolgere più lavoratori e lavoratrici possibili in questa lotta, appunto, di questi 6 lavoratori che in un modo o nell'altro cercheranno di mantenere quello che hanno, ecco. In bocca al lupo, e saremo sempre con voi. Grazie. Allora, abbiamo ascoltato i Now con Venceremos, infatti mi riprendono sempre i miei ascoltatori che non dico mai i titoli delle canzoni che metto in radio, avete ragione, scusate. Abbiamo ascoltato Valentini, il segretario della FIOM di Imola. Per chi si fosse collegato solo adesso, abbiamo raccontato la storia della Sant'Andrea ex Cogne di Imola, una piccolissima azienda con 6 lavoratori. Voglio dire una cosa, se avete letto sui giornali, ultimamente, nel mese di marzo, è uscita la notizia che fondamentalmente questi lavoratori sono salvi, dunque la lotta ha pagato. È fatto bene a mandare oggi questa trasmissione, perché anche se quello che io avevo chiesto a Valentini, andate per ascoltare la trasmissione, la troverete in podcast sulla pagina Facebook Il Pane e le Rose, mi raccomando, o sulla mia pagina personale per chi mi conosce, c'è la podcast dove mettono tutte le puntate, uno le può riascoltare. E la lotta ha pagato, è stata una lotta coraggiosa, come ho detto nell'introduzione, veramente sono da ammirare questi compagni di Imola per quello che hanno fatto. Una piccolissima azienda, purtroppo ormai, che fondamentalmente la grossa azienda di Novara aveva intenzione di chiuderla, hanno resistito, il magazzino rimane lì, i ragazzi vanno in cassa integrazione, non hanno ancora un piano industriale, quello che mi risulta, ma ci sono degli spiragli su questo, vediamo come andrà a finire, ma comunque sia va fatto onore e bisogna rispettare i compagni della FIOM di Imola e ammirarli per quello che hanno fatto per una piccola azienda di 6 dipendenti. Una cosa che non si fa più da nessun posto. Quando le piccole aziende vanno in crisi, chiudono, soprattutto dove non c'è il padrone, c'è una multinazionale che le ha rilevate, insomma, vengono abbandonate, i lavoratori vengono abbandonati. Il sindacato veramente fa fatica ad occuparsi delle piccole aziende, anche perché manca la forza. In realtà lì, dove non c'era la forza di questi 6 lavoratori, che comunque certo sono combattivi tutti e 6, ma hanno unito i lavoratori della provincia di Imola, delle fabbriche più importanti, i delegati sono andati in sostegno e hanno fatto un presidio per questi 6 lavoratori, una lotta veramente esemplare, qualcosa da ammirare, e mi dà speranza. Se il sindacato può occuparsi di 6 lavoratori, si può occupare anche di milioni di lavoratori, ed è la verità. Dunque noi abbiamo tantissime possibilità e capacità, bisogna solo organizzarsi e lottare. Questa è la Sant'Andrea, questo ci insegna. Anche dove uno dice, beh, qui non c'è nessuna speranza, anche in questo caso si possono ottenere dei piccoli risultati, anche importanti, soprattutto per la dimensione dell'azienda e delle forze che hanno a Imola. Io mi congratulo con loro e saremo sempre con voi, con chi lotta, sia nelle piccole, medie e grandi aziende e nel territorio. Alla lotta, compagni! Orgoglioso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan.